parlate di music, io no, i fat music, ecco, no cats. Un intervento alla laringe. You understand me when I say that I feel so good? Yeah, no, yeah, I thought I got no, yeah. Mi piace God of War. Mi piace videogiochi. Why do I feel so good?